Do il buongiorno a Armin Ferrari, il regista del documentario A noi rimane il mondo sui sentieri della Wuming Foundation. Buongiorno Armin e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a voi. Allora Armin, io partirei un po' dal titolo che so essere una citazione, quindi ti chiedo che significato ha il titolo di questo tuo documentario e come è stato scelto. È stata un'intuizione del produttore Roberto Cavallini, che è anche coautore della sceneggiatura del documentario. A un certo punto ci siamo trovati con questo materiale in mano, lo stavamo cominciando a montare e ci chiedevamo, ma che titolo può avere questo film? Cerca che ti ricerca, abbiamo valutato varie opzioni. Appunto Roberto se ne è uscito con questa idea di prendere una delle ultime frasi del celeberrimo romanzo Q e abbiamo capito che calzava benissimo proprio in relazione a quello che si vede nel documentario. Insomma, tutta questa serie di storie che cercano di raccontare, codificare appunto il nostro mondo nella maniera più approfondita, critica possibile. Ecco, quindi avere questo titolo poi sul finale, perché il titolo in realtà lo si vede solo alla fine, è molto potente, perché appunto a noi rimane il mondo, cioè noi abbiamo per le mani la responsabilità, cioè quello che ci voglio vedere io e che spero che ci vedano anche gli altri, insomma, a noi rimane anche la responsabilità di questo mondo, ci rimane la responsabilità di raccontarlo, di tenerlo in un certo modo e di farcelo durare il più possibile, che insomma non è proprio quello che in realtà stiamo facendo. L'hai appena anticipato, però ti volevo chiedere quali sono un po' i temi che attraversano il documentario e come hai deciso di raccontare il collettivo Wuming. Il documentario è sì anche su e con il collettivo Wuming, ma è anche su tante altre cose che orbitano attorno al collettivo Wuming e che sono nate dalla poetica creata in tutti questi anni dal collettivo Wuming. E ci sono 7 grandi filoni che si intrecciano lungo i 78 minuti del documentario. Allora, abbiamo sicuramente quello che entra prima, anche cronologicamente nel documentario, è il filone di resistenza in Cirenaica, che è una cosa fortemente radicata nella città di Bologna, e fanno un lavoro da anni sulla guerriglia odonomastica, sulla rimozione del colonialismo da parte della narrazione, diciamo, chiamiamola mainstream italiana, e è un progetto molto bello ed è un progetto molto, molto profondo che è narrato nel documentario da uno dei membri, che è Jadel Andretto. Poi abbiamo alpinismo Molotov, loro sono nati intorno alla poetica del romanzo Point Lenana di Wu Minguno e hanno istituito questa pratica di andare a camminare in montagna e raccontarsi delle storie legate ai luoghi, al contempo cercando di smitizzare quello che è invece il vecchio modo di andare in montagna, molto, molto maschilista, molto legato a un certo racconto anche di prestazione fisica e di forza. Loro in questo invece sono molto democratici e ci può andare chiunque in montagna, l'importante è andarci con lo spirito collettivo e con lo spirito di scoprire qualcosa di più sui luoghi e di raccontarsi qualcosa in più sui luoghi. Poi abbiamo anche Nicoletta Bourbaki, si occupa invece di smontare bufale a carattere storico. Anche qui quindi siamo sempre sulle tematiche della storia, di una narrazione mainstream che molto spesso non è in realtà reale e ha bisogno, nel documentario facciamo capire di quanto ci sia bisogno di invece andare a fondo nelle cose, capire cosa stiamo leggendo tutti i giorni sui giornali o sentendo nei notiziari. Poi andando avanti abbiamo anche un filone un po' particolare, un po' più emotivo, diciamo, che è quello legato ad Antar Marincola. È stato coautore con Wuming 2 di Timira, questo romanzo che era uscito ormai credo una decina d'anni fa. Qui raccontiamo la storia dello zio di Antar, che era un partigiano di colore che è morto qui tra l'altro dalle mie parti, perché io sono di Bolzano, lui è morto poco distante in Trentino, è morto dopo essere stato liberato dal lager di Bolzano, dove era stato dove era stato rinchiuso negli ultimi mesi della guerra, è stato liberato. Lui, invece che andare finalmente, tornarsene a casa, insomma, è andato ancora a combattere i nazisti che facevano gli ultimi rastrellamenti, le ultime rappresaglie, e lì è morto. Ecco, noi con Antar abbiamo camminato sui sentieri che probabilmente ha percorso anche suo zio, Giorgio Marincola, e abbiamo cercato di costruire appunto un viaggio emotivo per far capire ancora una volta quanto le narrazioni siano veramente importanti, e raccontare le storie e cercare di capire i luoghi anche che hanno ospitato le storie sia importante. Ultimo, ma non ultimo, appunto in tema territoriale e paesaggistico, abbiamo i tre componenti del collettivo Wuming che hanno ciascuno un filone specifico a lui dedicato. Cioè, avevamo il rompicapo che tutti sanno che i Wuming non si fanno filmare e non potevamo metterli in scena in quel senso là. E ci siamo detti, bene, allora cosa facciamo? Le voci loro le prestano, come hanno sempre fatto, proviamo ad andare in alcuni luoghi significativi per la poetica loro, e significativi anche perché c'è, in alcuni casi c'è addirittura un legame proprio geografico. Ad esempio con Wuming 1 siamo andati nei luoghi in cui lui è nato, nel Delta del Po. E lì lui ci ha raccontato tutta una serie di storie legate alla complessità del territorio, chiaramente abbinandole anche alla poetica, poi invece più ampia, che viene portata all'interno del lavoro letterario nel collettivo, e che poi ha dato origine anche a dei progetti letterari paralleli in cui sono state coinvolte altre persone. Insomma, ci sono tante cose. Con Wuming 2 siamo andati sulla Via degli Dei, anche questo è un sentiero molto bello, ma pieno anche di storie complesse, storie drammatiche legate alla devastazione del territorio che è stata fatta per creare la linea appunto dell'alta velocità che collega le due città. E anche lì quindi andiamo a fare una serie di riflessioni su come ascoltare il paesaggio e come osservare il paesaggio quando lo frequentiamo. Insomma, non è solo una mera contemplazione, dobbiamo farci delle domande, e lui ci ricorda che dobbiamo farci delle domande. E infine abbiamo Wuming 4, in quel di Dozza, ci racconta invece della relazione che per il collettivo Wuming degli ultimi anni è diventata molto importante tra la tematica del fantastico e invece quello che è la realtà, e la relazione che ci può essere tra il fantastico e la realtà, e come si possa utilizzare il fantastico per raccontare il quotidiano e quello che ci succede attorno. E anche lì vengono fuori delle riflessioni davvero molto potenti e molto interessanti. Bene, Armin, io ti ringrazio veramente per averci snocciolato tutti i temi contenuti all'interno del documentario. Mi rendo conto, insomma, che non è stato semplice, visto che veramente sono tanti i temi che attraversano il documentario, quindi ti ringrazio ancora, e so che è stato presentato il Biografilm. Dove possiamo vederlo prossimamente? Su My Movie. Esattamente, dopo la prima a Biography, e adesso il film è disponibile su My Movies e sarà disponibile fino a giovedì alle ore 19, se non sbaglio, quindi insomma c'è un po' di tempo per vederlo.